Storie italiane. Il ragazzo che disegnava gatti. C'era una volta, in un piccolo villaggio, un contadino che viveva con sua moglie e i suoi tre figli. Entrambi, figlio maggiore e il più giovane, aiutavano molto. Facevano qualunque cosa il padre gli chiedesse. Ma il figlio di mezzo, Andy, non pensava ad altro che a dipingere e disegnare. E cosa dipingeva? Gatti. Andy, dove sei? Oh, ehi, papà, stavo disegnando questo bellissimo gatto. Ti piace? Certo che mi piace. Così come mi sono piaciuti sempre tutti gli altri gatti che hai disegnato. Guarda, figliolo, devi smettere di disegnare tutti questi gatti. Ma padre, non li disegno solo per divertimento. Ho provato a disegnare altri animali e altre cose, ma quando disegno i gatti è come se mi parlassero. Il padre era davvero stufo di Andy. Andy, voglio che tu mi aiuti nel campo e non fai nemmeno questo. La prossima volta che ti vedo disegnare gatti, ti manderò dal saggio alla fine del villaggio. Cosa? No, non voglio andarci. Beh, devi ascoltarmi. Ora vieni a aiutarmi a portare le patate. Al povero Andy non piaceva lavorare nel campo. Pensava solo a disegnare gatti. Vedeva gatti ovunque e non si stancava mai di loro. Un giorno, il padre andò a cercare Andy, che sembrava essere scomparso. Dov'è quel ragazzo? Voglio che qualcuno porti il grano per me. Mau! Eh? Che cos'è? Mentre si muoveva nel campo, vide presto Andy seduto a giocare con un gatto dall'aspetto molto scontroso. Ah, non ce la faccio più. Andy, ragazzo mio, domani andremo dal saggio e gli chiederemo cosa potrà insegnarti, perché disegnare i gatti non ti renderà felice per sempre. Ma padre, questo è quello che mi piace fare. Ma il padre di Andy era determinato a convincere Andy a smettere di disegnare gatti. Quindi più tardi quel giorno, insieme, andarono a visitare il vecchio saggio. Il vecchio saggio li salutò e chiese loro perché fossero lì. Beh, vede, non piaccio a mio padre perché... Non è così. Non è che non mi piace. Il mio ragazzo, Andy, non fa nessuno dei lavori che un ragazzo forte come lui dovrebbe fare. Bene, allora che cosa fa? Dipinge. E dipinge solo gatti. Solo quelle sciocche creature baffute. Padre, te l'ho detto che i gatti mi parlano. Ti parlano? Questo sembra interessante. Andy disse al saggio tutto ciò che aveva detto a suo padre. Alla fine, il saggio divenne molto silenzioso e assorto nei suoi pensieri. Più tardi, il padre lo lasciò dal saggio. Il vecchio parlò gentilmente al ragazzo e gli fece alcune domande difficili. Le risposte furono così intelligenti che il saggio accettò di educare il giovane ragazzo. Il ragazzo imparava rapidamente ciò che gli veniva insegnato ed era anche molto obbediente la maggior parte delle volte. Ma anche il saggio notò che al ragazzo piaceva disegnare gatti durante le ore di studio e disegnare gatti anche dove i gatti non dovevano essere disegnati affatto. Il saggio chiamò il padre del ragazzo. A tuo figlio piace disegnare i gatti. E questo è un dono divino. Un dono che gli permette di parlare con i gattini? Puoi non credermi se questo è ciò che vuoi, ma ascolta quello che dico. Andy, molto tempo fa ho fatto un sogno di gatti e della città successiva. Penso che possano essere collegati. Ok, quindi devo andare lì? Sì, ma ricorda l'ultimo consiglio che voglio darti. Evita di disegnare troppi gatti terrificanti in un unico posto. Andy era molto confuso. Non riuscì a capire cosa il vecchio saggio volesse dire con il suo ultimo consiglio, ma ringraziò il saggio e se ne andò. Suo padre, tuttavia, non fu di grande supporto e lasciò che facesse come voleva. Camminò e camminò e presto raggiunse la città. Ormai era notte e la città sembrava molto tranquilla. Strano, non una persona in giro e tutte queste case sembrano chiuse. Mi chiedo se la gente viva davvero qui. La città era stata terrorizzata da un enorme, mostruoso ratto che era più grande di una mucca. Veniva solo di notte, quindi la gente della città se ne andava via la notte e durante il giorno tornavano e stavano nelle loro case fino al momento di andare via di nuovo. Andy vagò ancora un po' e si imbatté in un'enorme casa. Era così bella e invitante che Andy dovette entrarvi. Era qui che la gente lasciava cibo come offerta per il ratto gigante. Quando Andy entrò, trovò il cibo ed era così affamato che mangiò tutto quanto. Una volta finito, si rese conto che i muri erano tutti bianchi. Pareti bianche, enormi pareti bianche. C'è solo una cosa che una persona come me può fare qui: dipingere. E così iniziò a dipingere. E come sempre, dipinse un sacco di gatti sul muro. Ecco fatto, sono tutti così belli. Ma tutto questo dipingere mi ha reso davvero stanco. Probabilmente dovrei dormire per un pochino. Ma Andy non dormì a lungo. Fu improvvisamente svegliato da un forte rumore di animale. Cosa? Sentì ringhiare, forte, sempre più forte e vicino. Andy si spaventò e andò a nascondersi all'interno di un enorme baule. L'animale ringhiante entrò in casa e fece un tale rumore che Andy tremò fortissimo. In quel momento si udirono forti rumori di gatti. Gatti! E poi tremò forte anche la casa. Gli animali combatterono tra loro e Andy si tappò le orecchie. Oh, cosa sta succedendo? La casa tremava moltissimo e i forti rumori fecero uscire i cittadini fuori dalle loro case. Cosa? Cos'è quel rumore? Andiamo lassù a vedere. Forse qualcuno è stato così coraggioso da salvarci dal mostro ratto. Così andarono a vedere cosa stesse succedendo. Nel frattempo, alla casa, la lotta continuava ancora. Andy tremava ancora moltissimo. Oh, cos'è questo? No! Finalmente il combattimento finì e quando Andy sentì il silenzio, sbirciò fuori dal suo nascondiglio e vide il ratto gigante sconfitto e sdraiato sul pavimento, privo di sensi. Cos'è successo qui? I suoi occhi si posarono sui suoi dipinti e notò un po' di sangue sui suoi gatti. Cos'è successo? Oh, il ratto! È sconfitto il mostro ratto! Ci ha terrorizzati per così tanto tempo. Oh, grazie, gentile straniero. Andy non seppe cosa dire. Era molto sorpreso da tutto quanto. Capì quindi come mai il saggio gli avesse detto: evita di disegnare troppi gatti terrificanti in un unico posto. Prego? E presto la storia di Andy che aveva sconfitto il mostro ratto raggiunse tutti quanti. E per quanto riguarda il padre di Andy, la notizia del coraggio di Andy arrivò presto anche a lui. Sapevo che Andy aveva quei poteri per qualche motivo. Sei orgoglioso? Sì, sono molto orgoglioso. In realtà, si vergognava un po' di non aver lasciato che Andy seguisse subito i suoi sogni. Ma era lieto, ora che suo figlio era finalmente felice e faceva quello che sapeva fare meglio, disegnare gatti. La storia di Andy ci insegna che dobbiamo fare ciò che amiamo e l'universo troverà un modo per renderlo magico.